2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è stata una settimana sostanzialmente tranquilla, una tranquilla settimana di ottobre dal punto di vista tecnologico. Non ci sono state delle notizie sconvolgenti. Twitter continua a cadere in borsa. Tutti lo vorrebbero comprare, ma nessuno al momento si azzarda a spendere molti soldi e in attesa che il titolo crolli ancora e il prezzo diventi molto più appetibile, probabilmente nel giro di qualche settimana si troverà anche una destinazione per i social network, che non riesce a trovare un modello di business e quindi non fa soldi. Questo è il succo di quello che sta accadendo. Ma invece c'è un'altra notizia che continua a far discutere in tutto il mondo, e parliamo di quello che sta succedendo a Samsung. Il danno d'immagine di Samsung per le batterie del nuovo Galaxy Note 7 che prendono fuoco sta creando una voragine anche nei conti dell'azienda, che ha aggiornato al ribasso le previsioni sul proprio fatturato. Ricordiamo che la percentuale di unità difettose è minima, inferiore all'1%, ma non si sa quali siano i prodotti difettosi e soprattutto anche la soluzione che è stata adottata è risultata essere sbagliata, e poi non si sa nemmeno quale sia il problema. Allora, questa settimana l'azienda ha deciso di sospendere la produzione e la vendita del Note 7 perché appunto sono difettosi anche i nuovi Galaxy Note 7 destinati a sostituire la prima serie, quella che è uscita tra agosto e settembre. Samsung ha promesso il rimborso per i clienti che hanno già acquistato il Note. In Italia parliamo di poche persone, circa 2.000 persone, su 4.000 preordini. L'azienda in settembre però aveva già sostituito 2,5 milioni di smartphone in tutto il mondo. Ma questo forse a questo punto è il problema minore, cioè il costo della sostituzione, del rimborso eventuale dei clienti. Perché non si riesce veramente a capire quale sia il problema. Visto che la sostituzione delle batterie avrebbe dovuto cancellare il problema e non lo ha fatto, molti si stanno domandando appunto se sia effettivamente la batteria il punto debole. Allora, il direttore del Centro di Studi Avanzati sulle Batterie dell'Istituto Coreano di Tecnologia Elettronica, che sta indagando assieme a Samsung, ha detto in un'intervista al New York Times che le batterie sono state messe al centro del mirino troppo presto. Penso che le batterie usate non abbiano alcun problema, credo che il problema sia altrove e la complessità del dispositivo rende difficile capire quale possa essere la causa scatenante. E questo è proprio il vero problema, non si riesce a capire dove sia il difetto e questo naturalmente ha delle ripercussioni anche sui progetti futuri. E in generale direi sul sistema dell'elettronica di consumo, perché se c'è un difetto su un prodotto come questo, potrebbe anche essere, che ne so, un difetto di una parte prodotta da un terzo che magari fornisce prodotti anche ad altri. Insomma, è utile per tutti scoprire quello che è successo, proprio per comprendere per bene e non fare magari errori in futuro, sia per Samsung ma anche per l'industria in generale. Certo è che per Samsung questo è un, oltre che un danno d'immagine, a questo punto un danno economico molto molto elevato. Bisognerà capire se questo avrà un impatto di breve periodo, medio periodo, lungo periodo, e soprattutto se avrà un impatto anche su altri settori, non solo sul settore della telefonia mobile, ma anche su altri settori dove Samsung è leader nel mondo. Pensate ad esempio nei televisori. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. A proposito di televisori, chi ne possiede uno 4K, e molti nuovi televisori sono anche 4K, avrà la possibilità di vedere la nuova serie TV Rai I Medici in 4K o, che dir si voglia, Ultra HD, a partire dal 18 ottobre attraverso la piattaforma satellitare TVSAT. La stessa piattaforma e la stessa offerta dove sono stati trasmessi almeno una parte di gare degli europei in 4K. Ricordiamo che servono la tessera TV Sat Gold e anche una cam HD da inserire nel televisore. Comunque questa è sicuramente una notizia, perché siamo in una situazione in cui esistono e cominciano ad essere già un numero discreto di alcune migliaia i televisori 4K, ma praticamente non ci sono contenuti. Quindi questo è uno dei pochi e rari contenuti che verrà trasmesso in diretta televisiva. Digital News. Secondo i dati pubblicati da Assinform, nei primi sei mesi del 2016 il mercato digitale italiano, che comprende il settore informatico, telecomunicazioni e contenuti digitali, è cresciuto dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sfiorando un giro d'affari di 32 miliardi di euro. Questa media è composta da pubblicità digitale, che cresce e continua a crescere, più 9%. Servizi di rete meno 2,2%, servizi ICT, dove il cloud dà una bella spinta, più 2%, software e soluzioni, e nelle soluzioni Assinform comprende anche tutto quello che va sotto il cappello di IoT, Internet of Things, la internet degli oggetti, più 4,8%, quindi software e soluzioni spingono sicuramente il mercato. Digital News. Annunciato un anno fa, arrivano nuovi dettagli sul Pacific Light Cable Network, un cavo sottomarino in fibra ottica che dal 2018 collegherà Los Angeles a Hong Kong con velocità fino a 120 terabit al secondo. Verrà costruito da una società cinese, ma alle aziende che partecipano a questo ingente investimento di 400 milioni di dollari si sono aggiunte anche Google e Facebook, e questa è sicuramente una cosa che fa notizia. Ci sono un sacco di investimenti su cavi sottomarini in giro per il mondo, ma nessuno se li fila, solo perché Google e Facebook hanno deciso questo investimento molti parlano, anche noi ne parliamo. Non è la prima volta che queste società investono e partecipano alla costruzione e alla gestione di dorsali in fibra ottica ad alta capacità, ed è sicuramente un indice dell'importanza di queste infrastrutture. Magari ne parleremo, visto che in Italia è nata una iniziativa per cercare di intercettare traffico proveniente dall'Asia e far sì che il Mediterraneo e la Sicilia sia un punto di accesso di alcune dorsali in fibra ottica. Digital News. Un'ultima notizia riguarda Facebook, perché arriva una nuova proposta nel mercato dei sistemi di comunicazione aziendale. Facebook ha lanciato Workplace, che riprende alcune logiche del social network con altre funzionalità pensate per il business. È una nuova soluzione, potrei dire anche l'ennesima soluzione, per condividere documenti, comunicare, fare riunioni virtuali, anche in videoconferenza e anche con altre aziende, creare gruppi di lavoro su obiettivi specifici. I primi tre mesi sono gratis, poi il costo è veramente basso, $3 al mese per aziende con un massimo di 1000 utenti attivi, direi che l'Italia si ritrova perfettamente, $2 se i tuoi dipendenti sono da 1000 a 10.000 e se hai più di 10.000 utenti, $1 al mese per utente. La quantità di dati che il mondo produce cresce in modo esponenziale, questo lo sappiamo, anche se quando guardiamo i numeri che cercano di descrivere, perché poi nessuno è in grado di sapere con precisione quanti dati vengono prodotti nel mondo, però i numeri che cercano di abbozzare questa crescita sono veramente incredibili. La raccolta, l'analisi dei dati ha creato nuovi business, nuove soluzioni, nuove aziende, ma neanche distrutte altre o ne distruggerà altre, incapaci di capire il valore dei dati. Oggi potrei dire i dati sono tutto, a meno che tu non produca qualcosa di veramente unico, che non ha concorrenza. Se sei in un mercato fortemente concorrenziale, beh, se ti fai aiutare dai dati e dall'analisi dei dati, puoi forse diventare più competitivo. Però ci sono anche ancora molte aziende che sono incapaci proprio di capire quello che sta succedendo. A proposito di dati, ma questa è proprio una notizia flash della settimana che mi è arrivata in settimana, allora ve la racconto. Questa settimana Trenitalia ha annunciato che su tutti i treni jazz della flotta regionale sono stati installati sistemi di videosorveglianza in tempo reale, quindi con immagini che possono essere viste proprio in diretta. E poi su alcuni treni, e quindi anche questa è una fonte di dati, ma ancora più interessante, alcuni treni hanno installato una tecnologia che è stata definita People Counter, cioè il contatore di persone, che è, però se lo dicono in inglese sembrano più tecnologicamente avanzati, però vabbè, allora, che attraverso sensori collocati nelle porte di accesso consente di calcolare il numero di passeggeri in salita e in discesa durante le fermate. E anche questo, tutto non termina con la raccolta dei dati, poi questi dati devono essere analizzati e ben utilizzati, però è un esempio di che cosa vuol dire raccogliere dati. Magari laddove i dati non venivano raccolti in modo puntuale si installano sensori, si fa in modo anche nelle aziende si fa in modo di installare sensori, oppure si attivano procedure tali per cui emergono i dati, poi questi dati vanno analizzati. Quella forse è la parte più complicata. Allora, pensate che cosa può succedere, che cosa sta succedendo nel mondo dello sport. Quanti dati possono essere raccolti per capire e misurare il comportamento di chi fa sport ed eventualmente reagire e migliorare? Allora, di questo si occupano tantissime startup in giro per il mondo, si occupa anche Y Lab, che è un incubatore. Stefano Tambornini è il direttore. Y Lab è stato inaugurato a febbraio 2016 ed è il primo sport tech incubator in Italia. La finalità dell'incubatore è quello di costituire, diciamo, un centro di eccellenza per lo sviluppo e la crescita di startup innovative nel settore dello sport. Ricordiamo che questo incubatore è nato all'interno di una società che si chiama Y Scout, è una piattaforma che serve a squadre di calcio, agenti dei calciatori, calciatori stessi, federazioni, direi che tutti i top team del mondo e molte federazioni, comunque molti professionisti del mondo del calcio utilizzano Y Scout. È un enorme database di immagini di partite di calcio e serve per fare scouting, si dice, cioè trovare persone adeguate magari ad un certo ruolo. Immaginate una squadra che deve scegliere e acquistare un calciatore, può vedere le partite di quel calciatore in tutto il mondo, magari negli ultimi 10 anni, sapere, a proposito di dati, le performance di questo calciatore, ed è proprio per questo che Y Scout ha avuto successo. All'interno di Y Scout è nato questo incubatore. Allora, per quale motivo e che cosa sta succedendo di interessante? È un settore davvero in grande crescita ed espansione. Già oggi, semplicemente utilizzando proprio, se uno pensa a tutte le funzionalità che al proprio smartphone o diciamo ai braccialetti smart, si possono già avere e tracciare tutta una serie di informazioni e di tecnologie che è già disponibile, diciamo, per tutti. C'è poi però tutta una parte di tecnologia che in questo momento stanno usando in prevalenza gli atleti professionisti, e sicuramente questo tipo di tecnologia nel corso degli anni potrà arrivare anche velocemente a tutti. Facendo anche degli esempi, mi vengono in mente in primis dei sensori, ce ne sono di diversi tipi, ma sensori che permettono di misurare le performance degli atleti, il numero di accelerazioni, il numero di metri e chilometri percorsi, ma anche sensori che aiutano a monitorare l'atleta e capire i propri parametri interni. Oltre a tutto il mondo della sensoristica, ci sono già adesso, diciamo, le squadre professioniste, o se pensiamo al mondo del broadcasting, viene utilizzata anche immagine video, e attraverso, diciamo, il tracking video è possibile avere delle informazioni sui giocatori e sui metri percorsi. Se pensiamo a fine sia live ma anche alla fine di diverse partite, ci sono tutta una serie di informazioni che vengono già rese disponibili in ambito broadcasting, e queste, diciamo, sono informazioni che vengono utilizzate attraverso dei sistemi video automatici di tracciamento di tutto ciò che fa il giocatore durante o l'atleta durante la singola partita. Sì, e una tecnologia simile può essere utilizzata anche dai professionisti per analizzare quello che accade in campo e per capire come migliorare o cosa stanno facendo ad esempio gli avversari. Sì, no, assolutamente sì. Gli ambiti, diciamo, sono sia sul singolo atleta ma anche sulla singola squadra e quindi di conseguenza come si comporta l'avversario. Però poi, diciamo, oltre al mondo della performance c'è poi tutta anche una molta attenzione sulla creazione anche di injury index o di avere sempre più informazioni al fine di prevenire gli infortuni o avere anche degli allenamenti quanto più customizzati in modo tale da tener conto delle singole esigenze dell'atleta in quel momento. Quindi diciamo performance ma anche prevenzione. Sì. Senti, ci fai un paio di esempi, insomma, quanti ne vuoi, sull'uso dei sensori nello sport in generale per farci che cosa, per farci capire meglio? Il primo esempio che mi viene in mente è una startup che è qua con noi in Y-Lab, si chiama PyTech, e i ragazzi adesso stanno lavorando per costruire un prototipo funzionale a misurare ambito, diciamo, pugilato, lotta in generale, la forza del pugno, la forza del colpo, la velocità e la potenza dello stesso attraverso, diciamo, un device messo sulla mano, sulle nocche, e con la possibilità, appunto, come dicevo prima, di misurarsi, di confrontarsi o con gli amici o anche con il campione che si cerca di imitare. L'utilizzo dei sensori poi è trasversale su tutti gli sport. Un'altra startup con cui stiamo collaborando ha un sistema di tracking all'interno dei parafinti. È un altro sistema attraverso il quale è possibile monitorare cosa fa l'atleta, chilometri percorsi, e permette di avere tutta una serie di informazioni durante la partita. Pur riconoscendo uno o due aziende consolidate, anche multinazionali, che lavorano nel campo, in questo momento ci sono tante start-up che stanno lanciando i propri prodotti sul mercato, anche sensori che sono funzionali a raccogliere i dati, i parametri biometrici interni, quindi oltre al cardiofrequenzimetro, la temperatura del giocatore, la possibilità di misurare anche gli stress del giocatore. Beh, ci sono veramente un sacco di soluzioni, un sacco di startup che stanno approfittando del calo dei costi generali dei sensori e anche della capacità di questi sensori di raccogliere dati, e si stanno inventando un sacco di soluzioni anche per il mondo dello sport. È un tema che mi sembra molto bello, molto affascinante, molto stimolante, visto che ci sono anche tante startup e tante piccole aziende in Italia. Nelle prossime settimane cercheremo di raccogliere altre testimonianze per capire quello che sta succedendo in un settore molto importante che riguarda la vita di molte persone. Non tutti fanno sport, ma insomma è un'attività molto praticata. Dunque, abbiamo parlato recentemente di biciclette a proposito di sport, di sensori, di come la tecnologia sta cambiando, e allora vorrei proseguire in questa puntata approfittando del fatto che è venuta a trovarmi nei nostri studi Paola Gianotti. Benvenuta a 2024. Grazie. Tecnicamente dovrei presentarti come ultra cycler, cioè ciclista ultra, però la traduzione in italiano funziona. Ma che cosa fai? Allora, poi spieghiamo anche che cosa facevi, perché la tua storia è molto interessante, molto bella. Al momento un ultra cycler è una persona che fa tantissimi chilometri in bicicletta, quindi faccio lunghi viaggi cercando di ovviamente battere anche dei record, e quindi c'è anche un fine sportivo importante, quindi tantissimi chilometri in bicicletta in giro per il mondo. Prima ti occupavi invece di finanza. Sì, prima... A un certo punto hai detto meglio la bicicletta. Sì, mi sono laureata in economia e commercio, poi sono venuta a lavorare proprio qua a Milano per una grossa società di consulenza finanziaria, e era un mondo che era molto lontano da quelli che sono i miei valori, le mie passioni, e quindi a 30 anni ho deciso che sarei tornata nella mia città, che è Ivrea, e che avrei cambiato vita. E ho aperto una piccola società che si occupava di organizzazione eventi sportivi e culturali, solo che l'ho aperta nel 2008, nonostante avessi fatto economia 2008, momento di crisi economica mondiale, e purtroppo nel 2012 l'ho dovuta chiudere. E lì avevo due opzioni importanti: o tornare a fare un lavoro che non mi piaceva, o cambiare totalmente vita e seguire i miei sogni. E in quel momento ho deciso di seguire i miei sogni e fare il giro del mondo in bicicletta. Ti faccio raccontare alcune cose sulla tua vita, poi facciamo capire agli ascoltatori perché ti ho incontrato recentemente durante la presentazione di un'applicazione, visto che 2024 parliamo di tecnologia, questo è il motivo per cui sei qui. A proposito di imprese da ultracycler, che cosa hai realizzato? Perché poi tu hai detto sono tornata nella mia città, in realtà sei sempre in giro per il mondo. Sì, infatti faccio base Ivrea, ma in realtà sono sempre in giro. Sì, sono partita con un'importante impresa, proprio quella del giro del mondo, battendo un Guinness World Record, quindi ho fatto 29.540 km in 144 giorni, bruciando circa 600.000 calorie, facendo un dislivello di 175.000 metri. Da sola? No, ero accompagnata da un team di due persone, però io ero da sola che pedalavo, ero la seconda donna al mondo a tentare questa impresa, e ho avuto anche un brutto incidente a metà, perché negli Stati Uniti mi ha investito una macchina rompendomi la quinta vertebra cervicale e facendomi fare una sosta obbligata di oltre 3 mesi, ma poi sono ripartita proprio dal punto dell'incidente per completare il mio giro del mondo e concluderlo, per poi battere questo record di 8 giorni effettivi. Tu sei sempre andata in bicicletta? No, io ho sempre avuto una passione fortissima per lo sport, ma a livello amatoriale, e una passione fortissima per i viaggi. E durante i miei viaggi ho sempre visto tantissime persone girare per il mondo con la loro bicicletta e con le loro borse, e li ho sempre un po' invidiati. E negli ultimi anni, prima del giro del mondo in bicicletta, ho fatto triathlon, e la frazione che mi piaceva di più era proprio quella della bici. Lo sai che ci sono delle start-up che hanno una idea in testa, cioè quella di cambiare drasticamente la bicicletta nei prossimi anni? Poi sicuramente gran parte delle biciclette rimarranno cose che sono mosse dai piedi umani, però le stanno riempendo di sensori di qualsiasi genere. Apparentemente, vedendole, queste biciclette non sono niente di particolarmente diverso rispetto a quelle che noi vediamo oggi sulle strade. Però diciamo la sensoristica sta diventando un elemento molto molto importante. Tu stessa sei testimone di una piccola rivoluzione. Molti nostri ascoltatori fanno sport e ascoltano la nostra trasmissione in podcast mentre fanno sport, e molti nostri ascoltatori mentre fanno sport hanno un sacco di applicazioni, registrano quello che fanno, poi si vanno a rivedere, magari confrontano le proprie attività con quelle degli altri. Tu che cosa fai? Cioè come usi la tecnologia mentre sei in bicicletta, e per fare che cosa? Per me la tecnologia è importantissima, e credo anche che probabilmente non avrei fatto tutto quello che ho fatto senza tecnologia. Io utilizzo un'app che si chiama Sport Plus Health, e attraverso questa app riesco a fare tantissime cose, a monitorare il mio stato fisico, ma soprattutto una delle cose più importanti che faccio sia prima di partire per le mie imprese che durante le imprese stesse è tracciare i percorsi che vado a fare, perché io faccio, nell'ultima impresa ho fatto 12.000 km negli Stati Uniti, e quindi ho fatto una mappatura di questi 12.000 km che poi l'app mi ha riproposto dandomi tutte le informazioni di navigazione. E la cosa più bella è che non solo vedevo io la posizione dov'ero, ma tutti i miei follower, le persone che mi seguivano, la potevano vedere, e soprattutto può essere anche utilizzata in un contesto di gara, perché un preparatore atletico piuttosto che un'ammiraglia può seguire tutta la sua squadra e vedere dove sono i vari atleti e soprattutto controllare, anche fare anche delle strategie di gara, quindi controllare lo stato attuale del battito cardiaco piuttosto che la potenza che stanno sviluppando. Quindi è sicuramente un nuovo modo di strategia anche di gara. Allora, tu hai citato un'app e ci hai raccontato alcune delle cose che puoi fare con questa app, e alcuni ascoltatori, quelli più attenti alla tecnologia, che fanno sport, potrebbero dire: ah, ma lo facciamo anche noi, anche tu lo facevi da tempo. Ma la cosa che sta cambiando, ed è anche il motivo per cui stiamo facendo questa chiacchierata, perché ci siamo incontrati durante una presentazione in cui tu raccontavi questa evoluzione, è che prima, e te lo faccio raccontare, lo facevi con un po' di sensori che avevi in giro o sulla bicicletta o sul corpo, e adesso fai tutto con un'app sullo smartphone, che è una cosa sicuramente nuova. Sì, è la cosa più bella di tutte e penso che sia la cosa anche più economica, perché ovviamente nel momento in cui si devono acquistare sensori di potenza, fasce cardiache, sensori di pedalata, ma soprattutto uno strumento che è sofisticato, quindi uno strumento che è costoso, che viene messo sulla bicicletta, si ha un costo notevole. E invece adesso viene fatto tutto attraverso questa app e tutti abbiamo uno smartphone in tasca al momento, e quindi è tutto molto più pratico. Sì, molto più immediato. Quindi, diciamo, fino a poco tempo fa tu che cosa avevi? Appunto, fascia cardiaca, sensore di cadenza, sensore di potenza, che è soprattutto l'innovazione più grande, perché un sensore di potenza è molto costoso, e attualmente si valutano lo stato fisico di una persona, soprattutto per un preparatore atletico, viene proprio tutto basato sul sensore di potenza, quindi viene lasciato un po' perdere il battito cardiaco, ma le varie zone di allenamento vengono fatte in funzione della potenza che si sviluppa quando si pedala. E quindi adesso viene tutto fatto attraverso, ad esempio, questa app che utilizzo io, Sport Plus Health, viene fatta una simulazione di quella attraverso dei calcoli matematici, è stato studiato con l'Università di Verona di Scienze Motorie, e quindi attraverso questi calcoli viene simulata la potenza che si sviluppa quando si pedala, che è esattamente la stessa potenza che viene misurata quando si ha un vero e proprio sensore di potenza. Quindi tu non hai più tutte queste cose né sulla bicicletta né sul corpo. No, esatto, non utilizzo più questi sensori, tranne la fascia cardiaca, e soprattutto per quello che riguarda la potenza. Io mi alleno anche non solo in bicicletta, ma vado anche a correre, soprattutto nel periodo invernale, e la cosa bella è che attraverso questa app si può anche valutare la potenza sviluppata mentre si corre, che è una cosa assolutamente innovativa, perché non è mai stato fatto. I risultati che tu hai sono affidabili? Perché questo è un grande tema che riguarda tutto il mondo delle prestazioni fisiche, che stanno diventando sempre più popolari. La misura delle prestazioni fisiche sta diventando sempre più popolare. Ci sono strumenti, chiamiamoli consumer, con cui si possono fare un sacco di cose, dal semplicissimo strumento che ti misura la pressione arteriosa, che io collego con lo smartphone, fino a strumenti come quelli che tu hai citato, oppure un'app come quella che tu stai utilizzando. Ecco, ma l'affidabilità, cioè il risultato, le misure che tu hai, sono affidabili? Sì, sono affidabili. Io l'ho anche confrontate con gli strumenti che utilizzavo in precedenza e sono assolutamente allineati, quindi sono affidabili, e anche perché devono essere affidabili, perché mi baso su quelli per i miei allenamenti. E quindi sia per un preparatore che per un atleta, nel momento in cui non trova un allineamento con degli strumenti più precisi, questi non vengono utilizzati, perché poi gli allenamenti si basano proprio su quello che viene fuori da questa app, piuttosto che da un sensore di potenza che viene applicato sulla bicicletta. Quindi sono assolutamente allineati. Certo. Prossimo viaggio? Prossimo viaggio parto a breve per l'Uganda, perché nell'ultimo... Ma non in bicicletta. Non in bicicletta, okay. Ma vado a portare 73 biciclette, perché nell'ultima impresa ho raccolto i fondi per comprare 73 biciclette da donare alle donne del Karamoja, che è una zona di pastori nomadi al nord dell'Uganda. Se fuori la gomma tu sei in grado di ripararla? Sì, sono in grado. Ho imparato a fare tutto quello che può essere la meccanica di una bicicletta. Da quel punto di vista però la tecnologia non ti viene in aiuto, cioè devi fare come si faceva una volta. Come si faceva una volta? Se si buca si mette la camera d'aria dentro l'acqua. Non ho ancora trovato qualcuno che abbia fatto una innovazione tale per cui si possa puntare su una bicicletta che non si fora, che insomma con gomme che non si forano. Molte grazie, in bocca al lupo, a presto. Crepi, grazie. Questa è la versione podcast di 2024. Bentornati in questa seconda parte del nostro programma. Scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook e Twitter, ma in modo più leggero, diciamo così, più sintetico anche. Tutte le nostre interviste nella versione podcast sono in versione integrale, a meno che quando finiamo la registrazione o poco prima di iniziarla diciamo qualche cosa che non fa parte del tema e dell'argomento, però insomma tutto quello che registriamo con i nostri ospiti, visto che sono preziosi i nostri ospiti, ve lo propongo in podcast. Passate parola e consigliate ai vostri amici, ai vostri colleghi di lavoro, alle persone che conoscete di ascoltare 2024 in podcast. Torniamo a parlare di ebook e del sistema di editoria digitale, di tutto quello che sta attorno al libro elettronico, al libro digitale, con Antonio Tombolini, fondatore di StreetLib. Bentornato 2024. Grazie e bentrovati tutti. Diciamo subito che cosa fai, visto che da un po' di tempo che non ti sentiamo. Io ho detto parliamo di ebook, libri digitali. StreetLib di che cosa si occupa? StreetLib si occupa di servizi per l'editoria digitale. Quest'anno abbiamo compiuto a giugno scorso 10 anni. La società è nata nel 2006, per la verità con un altro nome che forse qualcuno da questi microfoni ricorda, che era Simplicissimus Book Farm. Poi è successo che quest'anno abbiamo deciso di entrare sul mercato americano. Dopo qualche rapido test abbiamo capito, e non ci voleva molto, che pronunciare la parola Simplicissimus è già un po' complicato per noi, figuriamoci in America. Sì. E così abbiamo cambiato nome e marchio, e streetlib.com. Recentemente ho letto in varie occasioni che c'è una seconda vita dei libri di carta e che i libri digitali non decollano. Io mi sono fatto delle domande, non ho trovato delle risposte convincenti. Tu che risposte dai? Ma sì, la cosa è tra l'interessante e il divertente, nel senso che sembra che a tifare e a remare contro i libri, e alla fine io dico libri to court, che siano poi di carta o elettronici, dal mio punto di vista non fa molta differenza, spesso sono quelli che teoricamente dovrebbero invece fare il tifo per i libri, come ad esempio i grandi gruppi editoriali. Qui non parlo soltanto del mercato italiano, ma è una situazione generale, un discorso assolutamente globale. Che cosa è successo di rilevante nel corso dell'ultimo anno, che poi può spiegare a mio avviso questa pubblicistica un po' strana della quasi morte, per alcuni prematura, del ebook a favore di una rinascita del libro di carta, sempre in una chiave antagonistica che non ha molto senso, certo, che non ha affatto senso. Naturalmente è successo che Amazon ha concesso ai 4-5 gruppi editoriali più grossi, che insistevano su questo punto da tempo negli Stati Uniti, di passare a un regime contrattuale diverso, di passare, in gergo si dice, dal regime contrattuale wholesale al passaggio agency, regime agency. Al di là dei nomi, cosa significa questo? Significa che mentre nel regime wholesale precedente il libro era trattato, come a mio avviso è giusto che debba essere trattato, come un prodotto che l'editore, che produce, vende a retailer, in questo caso Amazon, ma anche Apple, Google, eccetera, e che poi il retailer vende a sua volta al prezzo che dice lui, come è corretto che sia in un corretto regime di mercato, si è passati al modello agency, che invece è una sorta di finzione, per cui quando noi compriamo un ebook da Amazon, contrattualmente in realtà Amazon funge da agente dell'editore. Quindi in teoria è l'editore che vende a noi pagando una provvigione ad Amazon. Dov'è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è nel fatto che in questo secondo modello agency a decidere il prezzo di copertina, quindi il prezzo al pubblico, non è il retailer come nel regime wholesale, ma è l'editore, e l'editore decide il prezzo di vendita. Appena ottenuto questo questa modifica contrattuale, sì, i grandi editori si sono precipitati ad aumentare vertiginosamente i prezzi dei loro ebook, i prezzi dei loro cataloghi digitali, in qualche modo per poter dire, ed eccoci alle campagne stampa a cui assistiamo, per poter dire che gli ebook si vendono meno. A che pro? Questa è una domanda interessante. Credo che all'interno dei grandi gruppi editoriali ci siano aspre lotte interne tra le divisioni digital che stanno cercando, come un po' è avvenuto anche sul mercato dei periodici, eccetera, tra le divisioni digital che naturalmente spingono per l'innovazione, eccetera, e le divisioni invece, chiamiamole, più tradizionali, sì, che sì, si mettono in ottica difensiva. Il problema è che questo dato, poi è vero, riguarda le vendite ebook dei grandi gruppi che praticano prezzi, basta andare su Amazon e vedere, dell'ebook che sono spesso assimilabili ai libri, al prezzo del libro di carta corrispondente, ma il mercato degli ebook continua a crescere. Sì, infatti fino adesso, diciamo, ci hai descritto una situazione che prescinde dalla tecnologia, perché sono beghe tra editori, distributori, interne agli editori. Ecco, invece dal punto di vista tecnologico che cosa sta succedendo e come i consumatori reagiscono a questa offerta ormai che è diffusa ovunque? Devo dire, io non sono un grandissimo lettore, ma proprio non ci penso nemmeno a leggere un libro di carta. Ho sempre con me un iPad, un tablet e quello è il mio strumento di lettura, punto e basta. Beh, direi che dal punto di vista tecnologico, negli ultimi due anni, più che grandi avanzamenti epocali, perché ne abbiamo avuti anche parecchi, c'è il dato di fatto della enorme diffusione degli smartphone, direi globale diffusione degli smartphone, anche dei tablet, ma soprattutto degli smartphone, e degli smartphone a schermi sempre più grandi. E quindi l'utilizzo crescente di una pluralità di strumenti che grazie alle piattaforme cloud mi consente di leggere un libro passando dall'ebook reader che magari ho sul comodino al smartphone che apro quando vado in metropolitana o al tablet che ho mentre sono in volo e così via. E l'abitudine di lettura dell'ebook sta diventando questa, una pluralità di strumenti che diventa trasparente perché poi la sincronizzazione che grazie al cloud è possibile fare mi rende accessibile il libro, certo, ovunque io mi trovi. Indipendentemente dal terminale io accedo a quel contenuto. La centralità del contenuto. Sì. Tenendo è il segno, tra l'altro. È perfetto, naturalmente. Certo. Tenendo il segno, tenendo memoria delle annotazioni, delle condivisioni fatte e così via. Ora, come può essere che i grandi gruppi editoriali ci dicono che l'ebook è in calo e invece i dati di mercato complessivo, Stati Uniti ma anche da noi, continuano a parlare di una crescita della penetrazione degli ebook e di una crescita dei fatturati ebook a due cifre? Perché c'è una realtà parallela che invece si avvantaggia di questa strategia di prezzo dei grandi gruppi, che è quella del self-publishing. Il self-publishing è difficile avere stime ufficiali, naturalmente, perché il fenomeno di per sé è un po', diciamo così, underground, ma è ritenuto abbastanza verosimile l'attribuire al self-publishing sull'intero mercato del libro digitale americano, che ricordiamolo non è un mercatino, vale circa 5-6 miliardi di dollari da solo, un terzo del fatturato e del valore di mercato totale, con cifre crescenti. E non è un caso se Amazon, proprio nel momento in cui ha concesso ai grandi editori di intraprendere questa politica, a mio avviso suicida, dei prezzi alti sull'ebook, ha poi dirottato le sue attenzioni, i suoi investimenti allo sviluppo della sua piattaforma di self-publishing per pubblicizzare sempre di più i titoli che vengono autopubblicati. Sì. Ecco, il self-publishing è l'autopubblicazione, cioè io scrivo un libro e poi su internet ho tutti gli strumenti per pubblicarmelo. Esattamente. Che poi vuol dire distribuirlo. Anche distribuirlo. Il self-publisher in fondo è un editore, l'unica differenza è che è l'editore che di se tu. Stesso. Sì, sì. E quindi è l'autore che decide in qualche modo di fare anche l'imprenditore del suo libro. Allora comincia a imparare quali strumenti scegliere per la produzione, per la distribuzione, per la promozione. Non a caso cominciano a esistere casi rilevanti di self-publishers che diventano bravi nel fare gli editori di se stessi e che diventano editori, tout court, anche di altri, e cominciano a nascere nuovi editori proprio dall'area del self-publishing. Scoprono una professione. Senti Antonio, tu prima hai detto ci sono strumenti a proposito di tecnologie che ti permettono di sincronizzare il tuo contenuto, quindi il tuo libro, che poi può essere anche una cosa diversa dal libro inteso come il romanzo o qualsiasi altro genere di libro o di testo. Ci dici quali sono questi strumenti? Ce ne sono alcuni, immagino, più noti. Ma sostanzialmente non si tratta più di hardware, ovviamente, ma si tratta delle grandi piattaforme di fruizione di contenuti, la chiamerei così perché non riguarda più solo il libro, ma anche la musica, il video e quant'altro, che sono le piattaforme ormai in competizione piuttosto aperta di Amazon, Apple, Google. Per quanto riguarda i libri, Kobo, che è un po' un unicum perché è una piattaforma che lavora solo sui libri elettronici, almeno per ora, mentre i player che ho nominato prima ovviamente sono attivi anche sulla musica e in misura diversa anche sul mercato del video e della TV via streaming, on demand, eccetera. Questi strumenti sono ormai implementati di default sull'hardware che noi compriamo, che sia hardware basato su iOS, mondo Apple, o che sia hardware basato su Android con i vari device e produttori disponibili. Qualsiasi device ha già preimplementata un software di fruizione contenuti, libri compresi, che si preoccupa di fare questo lavoro. E esistono sempre più anche strumenti di transizione da una piattaforma all'altra. Direi che l'ultimo problema che è rimasto è l'isolamento tendenziale tra mondo Apple e mondo Android. Ma anche su questo esistono sempre più realtà. Non so, Amazon ad esempio è del tutto trasversale, rilascia continuamente aggiornamenti della sua applicazione Kindle, che alla fine è una piattaforma trasversale ai due sistemi operativi. Google, che lavora ovviamente su Android, però rilascia regolarmente applicazioni che poi consentono di utilizzare la piattaforma Google anche sui dispositivi Apple. Resta ancora Apple, per la verità, a perseguire una strada di totale chiusura della sua piattaforma di fruizione sui suoi dispositivi. A mio parere questa cosa comincia a stare un po' stretta e comincia forse a penalizzare un po' anche le vendite di hardware Apple, e mi chiedo se forse presto potremmo assistere a una svolta che sarebbe abbastanza importante anche da parte di Apple nel rilascio di applicazioni Apple. Sì. Per la fruizione su altre piattaforme. Certo, quindi una diciamo l'applicazione libre di Apple anche per Android, ad esempio. Esattamente, cosa che Amazon ha fatto, che Google Play ha fatto. Sì. Senti, c'è qualche altro player rilevante che è specializzato nel mondo dei libri, che si è fatto spazio oppure no? Ma c'è stata una fase all'incirca un anno fa e fino forse a 5-6 mesi fa, in cui c'era stato un gran parlare di nuove piattaforme che offrivano un approccio al libro in chiave, diciamo così, alla Spotify, e invece del classico meccanismo di acquisto del libro, pago un prezzo per il libro, faccio il download e lo leggo, piattaforme che dietro la corresponsione di un canone mensile, come siamo ormai abituati a fare per la musica, consentono l'accesso illimitato a un catalogo di libri. Io personalmente fui perplesso fin dall'inizio su questo modello e mi pare che la realtà ormai ci dica che questo modello si presta poco ai libri, per la semplice considerazione del fatto che, per quanto poco io voglia pagare un canone, supponiamo i classici 10 euro, 10 dollari tipici dei servizi in streaming della musica, mentre di musica ne posso ascoltare tanta perché ne consumo continuamente. Per quanto io sia un forte lettore, in un mese non so quanti libri riesco a leggere e sostanzialmente non vedo una grande convenienza da questo punto di vista, tanto che alcune piattaforme di streaming concepite con questo modello di business, su cui c'era stata una grande hype negli Stati Uniti, per esempio Oyster, hanno già chiuso nel giro di 6 mesi. Sì. Certo che se noi pensiamo che attendere, adesso non so quanto possa sopravvivere, qui parlo di un periodo medio lungo, 10, 15, 20 anni, se attendere anche i libri saranno completamente digitali. Poi è vero che ci sono quelli che dicono che il rapporto che hai con la carta, tutte queste cose qua, però non lo so sul lungo periodo se possa funzionare, avendo noi questi strumenti digitali sempre a disposizione e questi servizi, come tu hai ricordato, che ti sincronizzano e quindi non ti creano più il problema della dipendenza dal terminale. Detto tutto ciò, ci si prospetta un mondo dove anche per leggere i libri siamo dipendenti da poche piattaforme. Mi sembra di capire che alla fine sono pochissime le piattaforme. Sai, questo è il tema delle piattaforme di fruizione. Parliamo di contenuti digitali, non solo libro, musica e film. Io direi parliamo anche di altre, tutto quello che è la cosiddetta platform economy, per cui parliamo di Airbnb, parliamo di Uber, parliamo di altri servizi. Qui ho una mia opinione. Io credo che a regime, se vogliamo guardare non da qui a 10 anni, ma da qui probabilmente a 20-30 anni, questo tipo di servizio, e cioè le piattaforme, che adesso sono naturalmente molto remunerative, ma che hanno la necessità di essere colossi, perché se non sono colossi non hanno massa critica interessante per l'utilizzo da parte dell'utente, diventeranno probabilmente infrastrutture, diventeranno come le autostrade, diventeranno come l'acqua, come in passato è stata la telefonia, il servizio di provider di telefonia. C'è chi dice che lo sono già, però... Tendenzialmente diventeranno commodity, quindi... Io credo in un processo virtuoso per cui le aziende che oggi si fanno forti delle loro piattaforme progressivamente non potranno pensare di continuare a stare sul mercato e a lucrare profitti esclusivamente dalla rendita di posizione dell'essere proprietario di una piattaforma, perché la piattaforma tenderà a essere una commodity for granted un po' per tutti. Cioè, sì, che esiste e si può utilizzare... se non gratuitamente quasi. Esatto. Vedremo, questo è interessante. Senti, dal Facebook? Molto interessante, estremamente interessante. No, non l'abbiamo nominata perché alcune cose stanno succedendo su Facebook giusto in questi giorni, direi, in queste settimane, ma forse anche in questi giorni. Qualcuno avrà notato, ad esempio, che da non più di un paio di settimane su Facebook è possibile... arriva un messaggio per chi ha pagine, per chi gestisce pagine, e spesso sono pagine destinate a supportare il business, eccetera. Arriva un messaggio che dice: da oggi puoi gestire la tua vetrina di prodotti per facilitare l'acquisto da parte degli utenti. Io credo che questo sia il primo segnale di un ingresso pesante, e non potrà che essere inevitabilmente così, di Facebook sull'e-commerce. Di una svolta di Facebook che non diventa più soltanto e prevalentemente un advertiser, ma diventerà progressivamente, in maniera sempre più forte, a mio avviso, un vero e proprio retailer. Quindi anche di libri. E quindi anche di libri e di contenuti digitali. Certo. È molto logico. Se le persone sono lì, non ti faccio vedere solo la pubblicità correlata ai tuoi interessi, ma ti vendo anche delle cose. Esattamente, con la non piccola differenza che la pubblicità tendenzialmente disturba chi è lì mentre è lì per fruire di contenuti, mentre l'acquisto di un prodotto è un gesto, è un atto di scelta e di volontà di chi vuole andare a comprare qualcosa in una bottega in cui si vende qualcosa. Che Facebook arrivi a questo punto non solo è molto logico, ma a questo punto ci sono segnali piuttosto forti in questa direzione. Quindi mi aspetto che nel giro dei prossimi 12 mesi probabilmente Facebook dovrà essere guardata non più soltanto come il social network per eccellenza, ma anche come uno dei retailer competitor sul mercato globale dell'e-commerce. Molto interessante. Senti, su, dal punto di vista dei terminali c'è stata qualche novità, perché noi molti anni fa, diciamo, io ti avevo invitato per parlare dei primi ebook reader, che erano una cosa ancora sconosciuta, e tu spiegavi molto bene in che cosa consisteva quella tecnologia. Cos'è cambiato? Se è cambiato qualcosa? Non molto, per la verità, nel senso che ancora oggi siamo ad una situazione di dualismo tra i device strettamente dedicati alla lettura dei libri basati su tecnologia inchiostro elettronico e invece i device, diciamo così, multifunzione, tipicamente smartphone e tablet basati su schermi sempre più performanti LCD. Resta perciò vero, a mio avviso, per chi legge molti libri, per chi legge molto testo con continuità, che la lettura, lo strumento ideale per leggere queste cose resta un ebook reader a inchiostro elettronico. C'è da dire che l'evoluzione della tecnologia inchiostro elettronico, che a più riprese ha fatto parlare di inchiostro elettronico a colori, eccolo che sta arrivando e poi non è mai arrivato, schermi più piccoli, più grandi, ma poi alla fine lo standard è rimasto sempre quello del 6 pollici, diciamo così, della pagina del libro tascabile, equivalente della pagina del libro tascabile. L'interattività che potenzialmente potrebbe essere molto sviluppata e su cui invece non ci sono grandi segnali di investimento, io credo che tutto questo sia correlato alla consapevolezza da parte dei proprietari di contenuti, e torniamo al discorso iniziale. Probabilmente l'industria che deve sviluppare la tecnologia inchiostro elettronico, che è dedicata peculiarmente a questo tipo di prodotto, al prodotto libro, sta aspettando che chi offre contenuti libro abbia un atteggiamento più aperto verso l'evoluzione di questo prodotto prima di mettere le mani in tasca e accelerare lo sviluppo anche tecnologico di questi strumenti. Le due cose si legano. Sì, sì, certo. Senti, in tutto ciò c'è comunque spazio per piccoli e medi player tipo Streetlib, tipo voi. Senza offesa, ah, no, no, assolutamente. Credo. Cioè, dico senza offesa perché ti ho definito nostro, piccolo medio. No, no, no. No. Il nostro mestiere è abilitare non solo editori e tendenzialmente piccoli editori. Oggi produciamo e distribuiamo ebook per più di 1000 editori. E programmaticamente scegliamo di lavorare soprattutto con piccoli editori, ma anche appunto con self publishers. Abbiamo 15.000 autori che si affidano a noi per la distribuzione su tutti i canali. Abbiamo sviluppato per loro una serie di servizi complementari alla distribuzione, che resta il nostro core business, ma strumenti anche gratuiti per la produzione dell'ebook nei vari formati, per la sua promozione, piattaforme di vendita, eccetera. È un mercato che, abbattendo le barriere all'ingresso in termini di costi e anche di facilità di produzione e di accesso ai canali, ovviamente si apre a una miriade di possibilità che spesso vengono trascurate quando si parla su scala globale dei grandi business, ma la coda lunga poi per me è questa, cioè è molto la possibilità lunga. Che sul digitale questa coda sia tendenzialmente infinita e, dicendolo in maniera un po' volgare, ma dia da mangiare a tante persone, perché poi questo, certo, alla fine è quello che conta. Comunque quello che è interessante, e vorrei ribadirlo, è che abbiamo passato anni in cui si diceva con internet si disintermedierà tutto, cioè tu vai direttamente e vendi direttamente con il tuo e-commerce o con il tuo sito di e-commerce. In realtà poi questa prospettiva non si è completamente avverata. Sì, certo, ci saranno dei brand super specializzati, aziende super specializzate, anche molto brave, oppure aziende molto note, molto famose, che non hanno più l'intermediario e vanno direttamente sul mercato. In realtà però c'è spazio incredibile per l'intermediario. Assolutamente. Distributore. Ho sempre sostenuto che nessun mestiere scompare con la transizione al digitale, con la famigerata disruption, ma tutti i mestieri sono provocati a cambiare radicalmente natura. L'intermediazione commerciale, se aggiunge valore alla filiera, ha senso anche nel digitale e ha senso anche su internet. Quand'è, con che cosa deve fare i conti il vecchio modello di intermediazione? Sostanzialmente in tutti i settori, secondo me, con un cambio di mentalità radicale. Mentre nel mondo che abbiamo conosciuto e che conosciamo ancora in maniera prevalente, l'intermediario, semplifichiamo, diciamo così, il venditore, è mandato da un mandante che è il produttore. Il venditore è tipicamente il cosiddetto rappresentante del produttore. Sì, quindi esatto. A nome del produttore cerca di andare in giro e di vendere la sua mercanzia, nobilissima arte peraltro. Non viene meno la necessità di questa figura di intermediazione tra la produzione e il consumo, ma questo intermediario diventa rappresentante non più del produttore ma del cliente. Online, per avere successo nella intermediazione, io devo fare gli interessi dell'utente finale e quindi l'intermediatore non è più quello che cerca di piazzare i prodotti che ha in portafoglio, ma l'intermediatore è quello che cerca i prodotti giusti per gli utenti a cui si vuole riferire. Interessante. Noi nelle ultime settimane abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Nel tuo settore c'è qualche spunto interessante da questo punto di vista? Guarda, noi abbiamo dedicato la sessione annuale del team, siamo ormai 18 persone. Ci vediamo una volta l'anno perché poi lavoriamo tutti da posti diversi. La sessione che abbiamo fatto circa un mese fa, verso fine settembre, l'abbiamo chiamata più 15, cioè ci siamo imposti di ragionare per un giorno intero su cosa sarà il libro non tra 15 anni, ma a partire dal 15° anno in poi, quindi diciamo dal 2030 in avanti. Cioè, fase di sviluppo adesso che sei il 2030 fino a 45. E oltre. Sì. Questo per obbligarci un po' ad andare al di là della mera proiezione di quello che già si vede adesso, sì, sì. Ma cercare di capire invece quali potrebbero essere gli scenari e gli impatti in un'ottica molto più a lungo termine. Al centro ci siamo divisi in gruppi, abbiamo fatto un po' di brainstorming eccetera, al centro è venuto fuori in maniera unanime l'intelligenza artificiale come singolo fenomeno con cui fare i conti. Sarebbe lungo riprendere i tanti spunti che sono venuti fuori, magari se ci sarà l'occasione facciamo una seconda puntata presto, sì. Ma ad esempio abbiamo deciso di fare i conti con una cosa che secondo me, forse qualche editore adesso se la sente è meglio che si metta un po' seduto, ma se io devo ragionare sull'impatto che l'intelligenza artificiale, un mondo di quel tipo, potrebbe avere su una cosa che si chiama libro, non posso fare a meno di pensare che devo prepararmi a uno scenario in cui un prodotto come il libro, come tanti altri prodotti, avranno prezzo zero. E quindi chiedermi che cosa significa fare business su un mercato in cui il prodotto chiave, il libro, è gratis. Naturalmente non è una cosa semplice e scontata, ma io credo che se ci interroghiamo su intelligenza artificiale e produzione e distribuzione di contenuti digitali, uno dei fatti e dei fenomeni, e tra quelli dal punto di vista economico, quello sicuramente più rilevante, è questo tendenziale caduta del prezzo che arriva fino a zero. Un ebook oggi vende bene se costa 1,99 euro. Quindi non è che siamo tanto distanti dallo zero, però. Ma ci sarà una grossa resistenza, perché naturalmente, come tutti sappiamo, c'è molta più differenza tra 0,10 e 0 che non tra 0,10 e sì, 5. Sì, sì, sì, ecco. Zero perché saranno le macchine a fare i libri? Zero perché saranno le macchine a fare gran parte dei libri, probabilmente anche parte della creatività. Intelligenza artificiale può significare anche questo, certamente tutto della parte relativa a produzione, distribuzione, formattazione eccetera. E su questa scala, trattandosi di prodotto digitale, abbattendo i costi fino a zero. L'aspetto più interessante è quello relativo alla creatività. Lì si pone il grande dilemma per cui la creatività va pagata, non va pagata, come va pagata, quanto vale, quanto non vale. È lì il nucleo del discorso e secondo me affrontarlo pensando in chiave solo difensiva, che no, dovremo fare di tutto per impedire che vadano a zero, diventa come al solito una battaglia persa. Meglio chiedersi cosa può voler dire creare un mercato e stare sul mercato sapendo che lavori con un prodotto che costa zero. Ripartiremo la prossima volta che passi da Milano e hai tempo da dedicarci da più 15. Molto volentieri. Eh? Grazie ad Antonio Tombolini per essere stato con noi, a presto. Grazie a tutti, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024 nella versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Ci risentiamo la prossima settimana. Ho raccolto l'invito di molti ascoltatori a tornare sul tema dell'intelligenza artificiale e potremmo dire dell'automazione all'interno delle aziende. In questa prima fase le macchine sostituiscono, come abbiamo detto alcune settimane fa in una puntata dove abbiamo parlato di questo tema, sostituiscono i lavori anche intellettuali, ma quelli più ripetitivi, fino a che saranno capaci, come dicevamo poco fa, di avere fantasia, di essere creativi e quindi di fare anche qualcosa di più complicato. Per alcuni non passeranno molti anni. Noto che chi si occupa di tecnologia, chi vede, tocca con mano, parla con le persone che si occupano di questi temi, interpreta la velocità della tecnologia molto velocemente, cioè queste persone ritengono che le cose accadranno molto velocemente nel giro di pochi anni. Ci sono invece un sacco di persone che leggo, che commentano, che mi scrivono, che invece dicono no, ma vedrete che ci vogliono ancora tantissimi anni. Questo in vari settori, non solo per l'intelligenza artificiale, anche per la diffusione ad esempio delle auto elettriche. Ci sono delle previsioni che ci dicono che in modo molto molto rapido si diffonderanno le auto elettriche, e invece ci sono quelli che dicono aspetta. Vedremo molto presto che cosa succederà. Ci risentiamo la prossima settimana. Come sempre, grazie per aver scaricato questa puntata o averla ascoltata in streaming, e grazie per l'attenzione. Alla prossima settimana.